annunciata dal mattino, la notte in fondo che cos'è? Forse un sogno oppure un'altra vita che si perde scordata in un caffè. Una luce ora è con me, guardando dentro di te. Una notte forse buia non è, e sentire a lungo il tuo respiro, capire in fondo cosa c'è. Qualcosa forse mai sentita, finita, non so come dentro me. Si è scritto, ora vorrei, nelle stelle qualcosa di noi. Questo incontro è un po' strano, se vuoi. Pensieri che vengono al mattino, puoi chiederle se viene insieme a me. Poco tempo per rendere infinita una storia durata di un caffè. In silenzio guardarti vorrei, sentire che parli con me, volare pensando di noi, sulla riva insieme per capire, nel profondo il mare che cos'è, forse un bacio oppure una carezza. Dura solo il tempo di un caffè. E so di una luce cos'è, guardando dentro di te. La notte più buia non è. Yeah.